C'era una volta un taglialegna che abitava con la moglie e i suoi 7 bambini, tutti maschi, in una casetta al limitare del bosco. Poiché le bocche da sfamare erano tante, il poverino si dannava per riuscire a portare a casa ogni giorno quel tanto di che poter vivere. Ma la cosa che preoccupava di più il taglialegna era il figlio più piccolo. Era così minuscolo e delicato di salute che era stato soprannominato Pollicino. I genitori credevano che Pollicino fosse addirittura sciocco, perché se ne stava sempre per conto suo e di rado si univa ai giochi dei fratelli. Al contrario, Pollicino era un ragazzino sveglio e intelligente, parlava poco ma osservava e pensava molto. Capitò un'annata di carestia. C'era stato un inverno molto freddo con abbondanti nevicate che aveva costretto il boscaiolo a starsene in casa senza riuscire ad andare nel bosco a tagliare legna e procurarsi di che sfamare la famiglia. Il pover'uomo decise allora di disfarsi dei suoi figlioli. Una sera, dopo che come al solito i ragazzi erano andati a letto senza cena, il boscaiolo parlò alla moglie. «Moglie mia, domattina portiamo i ragazzi nel bosco e con la scusa di far legna ci allontaniamo e li abbandoniamo. Forse qualcuno li troverà e provvederà a loro». La donna pianse molto e si disperò, cercando di dissuadere il marito, ma quello fu irremovibile, non c'era altra soluzione. Pollicino però era sveglio e si era nascosto a giocare da solo sotto il tavolo della cucina, così sentì i propositi del padre. Senza farsi vedere sgusciò fuori dalla stanza, aprì la porta della casetta e corse al torrente vicino. Alla luce della luna raccolse 2 pugni di sassolini candidi e se li mise in tasca. Poi tornò a casa, si infilò nel letto e si addormentò tranquillo. Aveva già pensato a un piano. Il mattino dopo, all'alba, l'uomo svegliò i figli e propose loro di seguirli nel bosco. Tutti in fila presero il sentiero che si addentra nel fitto della foresta. Pollicino, che era rimasto l'ultimo della fila, ogni tanto prendeva un sassolino dalla tasca e lo faceva cadere dietro di sé. Dopo 2 ore di cammino arrivarono in una radura, dove fecero una sosta per riposare. «Voi state qui, io intanto vado a far legna con vostra madre. Quando avrò finito vi chiamerò, così mi darete una mano a legare le fascine e a trasportarle», disse il padre ai ragazzi, e se ne andò con la moglie. Passarono le ore, ma i genitori non tornarono. Arrivò sera, si fece buio. I bambini, presi dalla paura, cominciarono a piangere e a lamentarsi. Solo Pollicino sembrava tranquillo. «Non abbiate paura, fratelli miei. Il papà e la mamma ci hanno lasciati qui, ma noi troveremo comunque la strada di casa. Seguitemi, abbiate fiducia in me», disse Pollicino ai fratelli disperati. Loro si asciugarono le lacrime, si presero per mano e seguirono il più piccolo. La luna era appena spuntata e illuminava i sassolini candidi sparsi sul sentiero. Pollicino e i fratelli seguirono la scia e dopo una lunga camminata arrivarono a casa. Dovete sapere che proprio quella sera il boscaiolo aveva ricevuto dei soldi che gli erano dovuti da molto tempo. Aveva perciò comprato della farina, del riso e della carne. E così, quando i figli si affacciarono alla porta di casa, li abbracciò, felice che fossero tornati, e diede loro da mangiare a sazietà. Ben presto però le provviste finirono. Fame e miseria invece tornarono. Una delle tante sere di digiuno, il boscaiolo riprese a lamentarsi con la moglie della loro condizione. «Moglie mia, ci è andata bene una volta, ma adesso siamo peggio di prima. Non abbiamo più denaro né provviste. Non voglio vedere i miei figli morire di fame. Domattina li porterò di nuovo nel bosco e li abbandonerò. Spero che qualche anima buona si prenda cura di loro». La moglie pianse molto, ma ormai era deciso. Anche questa volta Pollicino ascoltò tutto, sgusciò fuori della stanza e fece per aprire la porta di casa, ma la trovò sbarrata. Allora aspettò che i genitori si coricassero e prese l'ultimo pezzo di pane secco dalla dispensa. Poi andò a dormire con i fratelli. Il mattino dopo tutta la famiglia tornò nel fitto del bosco e anche stavolta i ragazzi furono lasciati soli in una radura, con la promessa di essere recuperati a sera. La sera arrivò e dei genitori nessun segno. Pollicino aveva lasciato cadere le briciole di pane sul sentiero con la speranza di vederle brillare sotto la luna, ma durante il giorno gli uccelli del bosco avevano mangiato tutto il pane e ogni traccia del sentiero era sparita. I fratelli piansero tutte le loro lacrime e si disperarono. Pollicino cercò di consolarli. «È inutile piangere, fratelli miei, cerchiamo un riparo per la notte. Domattina alla luce del sole ritroveremo la via di casa». Detto questo si mise alla testa dei fratelli e cominciò a camminare. Il bosco era avvolto nel buio e si udivano i bizzarri versi degli animali e gli ululati dei lupi attratti dall'odore dei bambini. I fratelli procedevano impauriti e silenziosi, stringendosi l'uno all'altro. Pollicino faceva loro coraggio. Scoppiò anche il temporale. Tuoni e fulmini che squarciavano il cielo illuminavano il bosco a sprazzi. Sempre più stanchi, bagnati fino all'osso, i bimbi si distesero a terra. Orsù, fratelli, non perdetevi d'animo. Vedrete, tutto si sistemerà, l'incitò Pollicino. Quando la pioggia cessò, il piccolo si arrampicò lesto su un alto ramo per vedere dove si trovavano. Fratelli, vedo una luce, laggiù abita qualcuno. Su, alzatevi, andiamo a vedere, gridò Pollicino. Animati da una nuova speranza, i fratelli proseguirono il cammino e arrivarono davanti a una grande casa di pietra. Bussarono alla porta. Una donna venne ad aprire. Chi siete, bambini? E che cosa volete a quest'ora della notte? Vi prego, lasciateci entrare, disse Pollicino facendosi coraggio. Ci siamo persi nel bosco e rischiamo di finire divorati da qualche bestia feroce se non ci date ospitalità. Dovete sapere che la donna era niente meno che la moglie di un orco malvagio, ma aveva il cuore buono. Impietosita da quelle faccine stanche e spaurite, fece entrare i sette fratelli. Bambini cari, se volete vi do da mangiare e da bere. Poi però dovrete andar via, disse la donna. Sapete dove siete capitati? Siete nella casa dell'orco che mangia i bambini. Mio marito tornerà tra poco e se vi trova non ci sarà scampo per voi. I bambini tremavano come foglie al vento. Ma che altro potevano fare? Ancora una volta Pollicino parlò a nome di tutti. Signora, dove altro potremmo andare? È notte fonda e se usciamo di qui per noi sarà morte certa. Tanto vale che ci mangi vostro marito, il signor orco. A queste parole la buona donna si intenerì come burro al sole. Non soltanto diede da mangiare ai sette bambini, ma trovò anche un posto nella legnaia dove nasconderli e metterli al riparo dall'ingordigia del marito. La moglie dell'orco aveva appena finito di nascondere l'ultimo bambino quando un rumore pesante di passi fece tremare la terra. Era l'orco, sì, era tornato. La moglie corse ad aprirgli la porta e lo accolse con un caldo sorriso. «Entra, caro! Immagino tu sia stanco e molto affamato. Ti ho preparato un montone arrosto!» Senza perder tempo, l'orco si sedette a tavola e ingoiò in quattro e quattr'otto il montone. Tracannò un barilotto di vino fresco e disse: «Moglie, questo arrosto era buono, ma un po' troppo piccolo. E poi sento un profumo di carnuccia fresca che mi solletica il naso.» «Ma se sarà l'odore del vitello che ho appena macellato», disse la donna con un filo di voce. «Eh no, io sento odore di carne fresca, giovane e viva», urlò l'orco guardando la moglie di traverso. L'orco si alzò da tavola e seguendo il suo fiuto in tre passi fu alla legnaia. La aprì e vi trovò rannicchiati sette bambini, fermi e zitti come statue di sale. «Tu volevi ingannarmi? Buon per te che sei vecchia! Se no mangerei anche te», urlò l'orco, furibondo. «Prendi questi bambini e cucinali subito. Voglio invitare i miei amici orchi a pranzo domani. E voi uscite di lì, subito!» I poveri bambini uscirono dal nascondiglio con la morte nel cuore. Si gettarono in ginocchio e implorarono pietà. Ma l'orco, spietato, non cedette a nessuna preghiera. Anzi, prese un coltellaccio e già stava per affondarlo nelle carni tenere di uno dei fratellini quando la moglie lo fermò. «Aspetta, marito mio, non essere impaziente!» intervenne la donna. «Se uccidi i bambini e li mangi subito, dovrò buttare tutto quel ben di Dio che ti ho preparato. Un arrosto allo spiedo e un vitello che ho stufato con le cipolle. Aspetta domattina!» Insomma, alla fine riuscì a convincere l'orco. «Hai ragione, moglie. Ma oltretutto, ora che li guardo bene, mi sembrano un po' smunti questi mocciosi. Da loro altro cibo. Rimpinzali e mettili a letto, così domattina, quando li passerò col coltello, li troverò già belli farciti.» Dopodiché l'orco si risedette a tavola, mangiò, tracannò un altro barile di vino e infine andò a dormire. Dovete sapere che l'orco aveva sette figlie, sette orchette brutte quanto lui e di indole cattiva. Le bimbe erano già a letto da tempo e dormivano della grossa nei loro sette lettini. Ognuna di loro aveva una coroncina d'oro in testa perché l'orco, tanto crudele con gli altri, adorava le sue figlie e le trattava come principesse. La donna accompagnò i bambini in una camera vicina a quella delle orchette, dove c'erano sette lettini vuoti, uno per ciascuno, e poi se ne andò. Pollicino allora escogitò un astutissimo stratagemma. Mentre l'orco dormiva russando come un trombone e la moglie anche, si alzò e in punta di piedi andò nella camera delle orchette. Poi con mano leggera tolse dalle loro teste le sette coroncine e le mise sulla testa dei fratelli e sulla sua. «Non si sa mai, e se l'orco durante la notte avesse un ripensamento», disse tra sé e sé. Infatti, nel cuore della notte l'orco si svegliò, pentito di aver dato retta alla moglie e di non aver subito ucciso i sette fratellini. Afferrato un coltellaccio andò al buio nella camera dei bambini. Procedendo a tentoni li raggiunse e tastò le loro teste. Si fermò appena in tempo. Perbacco, stavo per uccidere le mie adorate orchette, sussurrò l'orco. Poi tornò sui suoi passi, entrò nella stanza accanto, toccò le testoline senza corona e zac, zac, zac, con 7 colpi precisi sgozzò 7 piccole gole. Ah, adesso sì che posso dormire tranquillo. Un lavoro in meno per domattina, così li troverò già belli frolli. Soddisfatto dell'impresa, l'orco tornò a letto e si riaddormentò come un macigno. Ma come avrete capito, le orchette non erano le orchette e i 7 bambini abbandonati non erano i 7 bambini abbandonati. Con lo scambio delle coroncine l'orco aveva ammazzato le sue figlie. Pollicino nel frattempo era rimasto sveglio e aveva sentito tutto. Così, non appena l'orco si fu riaddormentato, svegliò i suoi fratelli e fece loro segno di seguirlo in silenzio. Piano piano sgattaiolarono fuori dalla casa dell'orco. Era buio pesto e i bambini tremavano come foglie, ma tale era il sollievo di essere scampati allo stomaco del famelico orco che i loro piedi divennero leggeri come piume. I 7 fratelli corsero come giovani lepri. Corri e corri si allontanarono sempre più dalla casa, alla cieca, senza sapere dove stavano andando. Quando sorse l'alba, i bambini stavano ancora correndo. Nel frattempo, a casa sua, l'orco si svegliò soddisfatto nel suo letto. «Moglie, va un po' a vedere che fine hanno fatto quei mocciosi di ieri sera!» La donna, temendo il peggio, si precipitò in camera di Pollicino e dei suoi fratelli, ma la trovò deserta. I 7 lettini erano vuoti. Con uno strano presentimento nel cuore, corse allora nella camera delle figlie e le si parò davanti lo spettacolo più orrendo che avesse mai visto. Le bambine giacevano morte nei lettini, con la gola squarciata. «Disgraziato, che hai fatto?» disse la donna. Richiamato dalle urla, l'orco accorse e quando si trovò di fronte a quello scempio, preso dall'ira e dal dolore, strappandosi i capelli, esclamò: «Quei demoni me la pagheranno! Ah sì, me la pagheranno!» Si vestì in fretta e furia e indossò i suoi stivali. L'orco possedeva un paio di stivali magici, in grado di compiere ben 7 leghe per ogni passo. Detto fatto, era già fuori dalla porta. Attraversò il bosco a larghe falcate, superando in un baleno torrenti e fiumi, cime e vallate. Pollicino e i suoi fratelli intanto avevano quasi raggiunto la loro casetta quando sentirono risuonare dei passi pesanti. Fecero appena in tempo a nascondersi dietro una roccia che l'orco era arrivato, terribile, sbuffante, furibondo. Fiutava tutto intorno come un cane da caccia. Per fortuna l'orco era sfinito dalla strada che aveva percorso. Gli stivali consentivano di coprire grandi distanze in poco tempo, ma erano molto pesanti. «Che sonno! Quasi quasi mi faccio un pisolino!» L'orco si abbandonò contro il tronco di un albero, si lasciò scivolare a terra e si addormentò di colpo. A quel punto Pollicino gli si avvicinò, gli tolse gli stivali e se li infilò. I magici stivali si adattarono subito ai piedi del bambino, che dopo aver ordinato ai fratelli di scappare e chiudersi in casa, corse via. Aveva già pensato a un piano per volgere la sorte a suo favore. Così, correndo come un matto, rifece la strada al contrario e si presentò a casa dell'orco. «Signora! Signora! Vostro marito si trova in grave pericolo!» disse Pollicino trafelato alla moglie dell'orco. «È caduto nelle mani di una banda di briganti che l'hanno fatto prigioniero. Se non torno col denaro, lo uccideranno. Ma per fortuna c'ero io da quelle parti. Per questo indosso gli stivali di vostro marito. È stato lui a mandarmi qui.» La brava donna, già afflitta da quanto era successo quella notte, non ci pensò due volte e consegnò a Pollicino tutto l'oro che aveva in casa. E così Pollicino, carico di quella ricchezza, fece ritorno alla casa paterna, dove venne accolto con grandi feste dai fratelli e dai genitori. E l'orco? Quando si risvegliò e si accorse di essere stato derubato degli stivali, tornò a casa mogio mogio. E fu tale la rabbia, la vergogna e il disonore nel vedersi derubato di tutto l'oro, che, presa con sé la moglie, se ne andò per sempre da quelle terre. Alcuni dicono che questa non è la vera fine della storia e che Pollicino non rubò affatto l'oro dell'orco. Si dice invece che si presentò a corte e si mise al servizio del re e grazie ai suoi stivali magici poté compiere grandi imprese. Diventato messaggero di corte, riusciva a raggiungere in un baleno i luoghi di battaglia e a riportare notizie fresche al re. E fu così che diventò ricco e famoso. Allora tornò dal padre. Né lui né i suoi familiari conobbero più fame e miseria e vissero tutti nella più grande agiatezza. Insomma, anche i piccolini alti poco più di una spanna possono compiere grandi imprese, soprattutto se sono svegli e intelligenti.